boom. Oh, ma sto blaze è proprio un coglione, non è capace. Infatti si poi balla con quel gruppo di sfigati, sanno fa un cazzo. Ma che io l'ho visti, mica son male, mi vanno bravi. Ma cazzo sto Dio, ma mi vedi bene. Ma sto coglione. Mi guardo intorno e vedo un branco di buffoni, solo perché non credo nelle loro convinzioni. Mi etichettano e se la fanno pure da padroni, ma io so Blaze, invece loro sono solo cloni. Diversità non equivale ad inferiorità, ma preferite classificare per comodità. Siete convinti di averne l'autorità, per me l'invidia è causare la vostra ostilità. A differenza vostra lo faccio per passione, niente di più, non c'è nient'altra motivazione. Lo faccio perché per me è una via d'uscita, legge il mio braccio, sta roba mi ha salvato la vita. E la vivo a 360 gradi, non è un hobby, è una delle cose basilari, ma che perdo tempo a fare. So per spiegare cosa chi invece che un fratello mi considera un rivale. Già da piccolo io avevo paura che gli altri mi criticassero, peggio non mi accettassero. E l'unica differenza oggi è che anche ancora non mi accettino, non me ne frega un cazzo. L'estate è pure nel vostro mondo, innalzate le barriere che tanto poi le sfondo. Gente come voi io non mi circondo, vivo per i cazzi miei, voi siete solo di contorno. È meglio che accannate, ve conviene, datemi retta, sta roba non va appartiene. Io c'ho le palle piene di tutte ste lamentele, dei litigi, chiacchiere, dei corridoio e cantilene. Ma voi siete quelli che di cose ne hanno viste, i veterani della scena. Ciò che è triste è che ai vostri party ci mancano solo le cubiste. Qua c'è un piccolo dettaglio, qua la scena hip hop non esiste. Diverso e ne sono fiero, quello che faccio io ci credo per davvero. È quello che conoscete che vi dà sicurezza. Se qualcuno ha un altro stile, per voi non è l'altezza. Sempre pronti ad attaccare, contrarre le innovazioni. Vi pensate di essere i padroni e vi lanciate critiche prive di senso. La vostra è paura del diverso, paura del diverso. È così, la Tina è piena di coglioni. Pensano che sia un ghetto e che esistano le fazioni. Ma che mentalità da ghetto, direi mentalità di merda. Purtroppo è questo tutto ciò che offre sta città di merda. Sì, perché fanno gli alternativi e poi sono chiusi. Sono lì, limitati nei loro usi e costumi, convinti di essere diversi, però tutti omologati, senza personalità e fanno gli svegli, ma sono tutti. Chi veste largo alla Tina si crede di essere figo, o vesti come lui, oppure fai schifo. Chi fa rap alla Tina si crede di essere figo, o rappi come lui, oppure fai schifo. Chi balla hip hop alla Tina si crede di essere figo, o ballo insieme a lui, oppure fai schifo. Io vesto a modo mio, rap a modo mio, ballo con chi voglio io, è per questo che faccio schifo, zio. Il fatto è che avete paura del diverso, che pure voi state tutti nello stesso verso, che dal vostro mondo sono fuori, però voi siete fuori di testa se vi credete migliori, perché l'hip hop è fratellanza e coesione, non è rivalità, antagonismo o motivo di divisione. Non puntatemi il dito se mi sento fallout, io sto tutto esaurito, infatti ballo coi sold out. Sto pezzo va a tutti quegli scemi che mi dicono di ritirarmi, tanto non me fermo, sa c'è sta chi già lo sa come so fatto. Se non me vuoi far cazzare non me tocca Benito Merlo, fra non siamo amici, non lo siamo mai stati, e mi dispiace perché siete voi quelli complessati. A non ve pare pure a voi una situazione de merda. Se abbiamo la stessa roba e pensiamo a farci la guerra. Oh, diverso e ne sono fiero, di quello che faccio io ci credo per davvero. È quello che conoscete che vi dà sicurezza. Se qualcuno ha un altro stile, per voi non è l'altezza. Sempre pronti ad attaccare, contrarre le innovazioni. Vi pensate di essere i padroni e vi lanciate critiche prive di senso. La vostra è paura del diverso, paura del diverso.